Mondo Salute di Nicoletta Carbone. SMA, il futuro sta cambiando. Approvato in Italia nusinersen, la prima terapia per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale, una malattia genetica rara che colpisce prevalentemente i bambini ed è la prima causa genetica di mortalità infantile. Finalmente, una terapia che offre una speranza concreta a una comunità di pazienti che sino ad ora aveva come certezza solo una prognosi infausta. A Obiettivo Salute il professore Eugenio Mercuri, direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Questo farmaco, che è un farmaco che agisce a livello genetico aumentando una proteina che manca in questa malattia e che è responsabile della forza di questi bambini, è finalmente disponibile. Ci sono stati due studi che sono stati completati, uno in bambini molto piccoli con la forma più grave e il secondo in una forma intermedia, anch'essa comunque grave e progressiva. Entrambi questi studi hanno portato dei risultati eccezionali perché abbiamo visto cambiamento della storia naturale della malattia, non solo perché aumenta la sopravvivenza, nella forma più grave solo il 25% di questi bambini sopravvive oltre il primo anno di vita, quindi dicevo non solo aumenta la sopravvivenza ma aumentano anche alcune funzioni motorie e respiratorie che sono fondamentali e soprattutto aumenta la qualità di vita di questi bambini, quindi un giorno davvero importante. Oggi giornata mondiale delle malattie reumatiche, patologie molto diffuse ma ancora sottovalutate dai pazienti che spesso non segnalano tempestivamente i sintomi al proprio medico curante. Sulle pagine di Obiettivo Salute il presidente della SIR, Società Italiana di Reumatologia, Mauro Galeazzi, ci aiuta a riconoscerle. E sempre oggi si celebra la giornata mondiale della vista. Lo slogan di quest'anno è «Fa che la vista conti» e sarà l'occasione per parlare di prevenzione, riabilitazione visiva e cura degli occhi. A Obiettivo Salute l'avvocato Giuseppe Castronovo, presidente IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. La IAPB Italia ha promosso una serie di iniziative. Saremo presenti in 100 città italiane con gazebo, con una ampia documentazione non solo sulla retinopatia e la diabete, ma anche su altre patologie, perché la vista è uno dei beni, dei sensi, lo dice anche Aristotele, più amati dall'uomo, più importante per la salute dell'uomo, perché dà autonomia, libertà, è fondamentale la tutela della vista. E proprio di prevenzione della salute dei nostri occhi parlerò tra poco in diretta video con il dottor Andrea Lembo, che ci aiuterà a vederci chiaro. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue naturalmente con Melog, noi ci vediamo tra poco e ci sentiamo domani alle 11 quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.